Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Big World e benvenuti alla puntata numero 5 di A Tavola con Fabiola. Questa è la Radio Big World e io sono Fabiola. Oggi vi presenterò la mia nuova ricetta, risotto all'indiana. Ingredienti per 4 persone. 200 g di riso papta, mezzo litro di acqua, un cucchiaino di sale fino. Preparazione. Fate bollire in una casseruola l'acqua. Aggiungete quindi il sale e dopo il riso. Portate l'acqua ad ebollizione. Coprite e fate cuocere a fuoco basso per 20 minuti. A fine cottura il liquido deve essere tutto assorbito. Ingredienti per la variante al curry. 250 g di riso papta, un cucchiaio di curry, 60 g di burro, una grossa cipolla affettata, mezzo litro di brodo vegetale bollente. Soffriggete la cipolla con la metà del burro e versate il riso e fatelo rosolare. Aggiungete il curry e poi versate il brodo. Riportate ad ebollizione, coprite la casseruola e mettetela in forno. Dopo 20 minuti toglietela dal forno. Aggiungete il burro rimanente e sgranate il riso con la forchetta. Questa era la ricetta del riso all'indiana. Buon appetito! Grazie per avermi ascoltato. Vi do appuntamento alla prossima ricetta qui a Radio Big World.